Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Sofisticato centinaio, poi le spiego, le cose così, più semplicemente. Non ma tu puoi capire non fare come il fenomeno con me, io vado in strada a guardare la gente, no. Io, contrariamente tu a te che vai a parlare con Renzi, io vado a parlare con i giovani disoccupati. Sono due taglie diverse, la tua è quella di Fonzi e la mia è quella del popolo, sono due cose diverse. Sei di una banalizzazione totale. Dire a me perché io sono qui. Tu sei da salotto. No, io sono salotto. Sei l'uomo dei salotti. Io sono l'unico, io sono il salotto. Io sono l'unico che viene qui, lavora volontariamente, lavora volontariamente e si ha un lavoro per mantenersi e sono qui a totalmente sulla la mia spesa mia. Quindi tu a me dei salotti non mi devi parlare. Di frizzante dibattito, rispunta Fonzi secondo il leghista Centinaio che accusa il responsabile economico di Renzi di lavorare per Fonzi. Che bei tempi. Alino, il primo debosciato sei tu! Bah, ci sarebbe da discutere, caro ascoltatore, amico mio, ci sarebbe da discutere. Allora saluto, magari vi siete dati l'appuntamento, saluto un ascoltatore che mi scrive appunto debosciato su WhatsApp. Oh Milan, hai anche tu WhatsApp? Al 349-238-6666 risponde anche il nostro WhatsApp. Non è vero che Fabrizio mi scrive da Piateda. Ho passato l'infanzia a Piateda. Fabrizio, guarda che se mi stai prendendo in giro mi arrabbio, eh? Piateda in provincia di Sondrio. Per la verità frazione Valbona per quel che mi riguarda. 42 anime e 100 mucche, credo. Ebbene sì. Saluto anche Alberto. Oggi auguri ai pompieri per Santa Barbara. Alberto, lo ripeto sulla fiducia, se è così auguri a tutti i pompieri. Va bene, allora siamo qui, le 6:32 minuti, è venerdì, amici! Si chiude la 135esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. Giustamente ringrazio un ascoltatore che dice debosciato un paio di palle vista l'ora in cui ti svegli. Effettivamente svegliandomi alle 5 debosciato, insomma adesso piano, piano. Comunque siamo qui Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia, il Parlamento che può aprire perché oggi abbiamo stavolta l'ho fregato, l'ho chiamato il giorno prima della partita perché tutte le volte insomma il nostro mitico juventino la squadra più forte del mondo e non la cambio neanche per solo. 899 è la data che tengo a memoria. Eccolo qua, che bello Barione di Rolfo. L'inno del Milan, ha detto mettete Happy Days come inno del Milan, i giorni felici da ricordare. Ormai niente, ti lanceremo sempre con l'inno della storia. straordinaria squadra rossonera, la squadra più forte del mondo. Dico la squadra più forte del mondo e non la cambio neanche per sogno. Non la cambio nemmeno per sogno. Tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio. Vediamo, ti faremo su un rap su questa tua. Però è perfetta questa cosa di chiamarmi con Piccino. Adesso l'annuncio io perché abbiamo fatti certo, tre, uno, certo, due, tre. Insomma, sembra che il percorso calcistico venga sempre bene. Mi sembra giusto. Juventus Palermo è finita, anzi Palermo Juventus 0-3 e il nostro Vincino sarà ancora sotto per questa cosa. Buongiorno. Sei distrutto? Sì, eccomi. No. Ti sei ripreso dopo le pappine che la Juve ti ha infilato? Ma poi abbiamo perso pure con l'Alessandria, là, con un disastro. Ah, già, è vero, indegni ha detto proprio, Zamparini. Ma indegno lui, guarda, che, sì, che ogni anno trova due giocatori bellissimi e si rivende subito a fine stagione 100 volte quello che l'ha comprato. Insomma, è un mercatino questo di Palermo che lui fa da 20 anni. Insomma, allora, la Juventus va alla grande con quello comprato dal Palermo, no? Con Dzyballa, là. Chi è questo? L'inno, ti facciamo sentire l'inno dell'Alessandria. No, dell'Alessandria. Questo è l'inno dell'Alessandria, mica del Palermo. Allora, caro Vincino, tra l'altro, non solo avete preso tre pappine da Juve, non solo Palermo è un po' in difficoltà, ma abbiamo pescato questa chicca di un deputato inglese. C'è un deputato inglese che nel dibattito contro l'ISIS ha fatto una gaffe. Ha detto, voleva dire che l'ISIS ha conquistato tra le varie città Palmira. Ma senti, dalla gaffe cosa gli è venuto fuori, During more than a year of bombing, ISIL has expanded and lost territory. ISIL gains included the Iraqi city of Ramadi and the Syrian city of Palermo. Of Palermo, cioè ha detto l'ISIS ha conquistato la city of Palermo. Ha ragione, finalmente un inglese che dice la verità. C'è l'ISIS a Palermo. Ma, sì, è Crocetta, è il califfo disgraziato di questo cavolo di ISIS che fa pure schifo pure a Palermo Sicilia. Sì, Crocetta è uno là preciso, guarda. Ma io non pensavo la Sicilia Crocetta. Ormai è persa quasi, insomma, ci bisognerebbe fare un'armata per riconquistarla. Ma io non pensavo a Crocetta, ho detto magari ci saranno dei barbuti che si aggirano. Ma state... cosa pensavi? Al tribunale di Palermo dove si spassano i beni dei mafiosi e si compra le macchine a gratis e tutti lavorano in questo giro enorme dei beni dei mafiosi, tutti figli dei magistrati, nepoti dei magistrati, moglie di magistrati, mariti di magistrati. Fermati, vogliamo risentirlo. Io mi sono chiesto perché in tanti anni nessuno, soltanto essere tutti intelligenti, ma di Palermo si accorgeva di quello che succede perché erano tutti complici. Eccolo qui, vogliamo risentirlo questo deputato inglese. L'ISIS ha conquistato Palermo, senti. And the Syrian city of Palermo. Palermo, è chiaro, l'audio è chiarissimo. Allora, è chiarissimo, no, a parte grazie agli inglesi che finalmente dicono la verità. Se verranno a bombardarvi e a liberarvi. Allora, veniamo a cose più serie e drammatiche. Caro... più serie e drammatiche di Crocetta in Sicilia, scusami. Basta, fermati. Allora, Mario Dinolfi, l'hai vista questa cosa in America che sai cosa titola? Sai che titola ancora Libero e anche questa volta i bastardi sono islamici e a lei si ricomincia. La dobbiamo leggere così? Io veramente fatico a capire come si possa non definire un atto di terrorismo islamico una strage con 14 morti, un tubo bomba che ne avrebbe fatti 10 di più collegato ad altri 3 ordigni, hanno fatto irruzione a casa loro, hanno trovato 5.000 proiettili e altri 12 bombe preparate. Lui era uno in contatto con gli jihadisti, poi insomma si può descrivere come vogliamo questo atto, ma certo non era uno che aveva litigato con la moglie, insomma si era provato a dire all'inizio, insomma è evidentemente un atto di questo genere. Io dico sempre, noi o capiamo o moriamo, questo è quello che dobbiamo avere chiaro in testa, poi ovviamente titolare quei bastardi tutta la stupidaggine per vendere la coca di Libero e sti cavoli, ma il dato reale, noi non capiamo la radice islamica di questi atti, cioè non capiamo che non possiamo descrivere questi come dei pazzi, sono dei pazzi criminali che fanno perché hanno svalvolato col cervello, funziona così? No, no, esiste una frangia estrema non minimale di persone che si considerano in guerra con i crociati, questa è la cosa che usano, che siamo noi, li vanno ad ammazzare. Questa è la ragione per cui avvengono questi fatti. Poi ogni volta vogliamo raccontarli come un problema psichiatrico, se noi non stiamo raccontando la verità. Guarda, io ti ho lasciato parlare perché io su questo sono d'accordo con te, vedi che non sulla fede calcistica no, ma su questo la penso come te, caro Vincino, io la penso come Mario Di Nolfi, cioè possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma ci sono delle persone, io lo dico sempre, speriamo che non siano molte, ma che ogni tanto escono e che hanno l'unico obiettivo di ammazzarci in quanto professiamo una religione diversa o siamo laici, siamo più liberi, non lo so. Caro Vincino, che ne so, guarda, noi disegnatori di vignette, come dire, siamo parte in causa, ne sapete qualcosa, però quelli attraggono, quelli, cioè, insomma, 330.000, 50.000 vanno là, non è che vengono, cioè, qua Arinolfi, qua voi non attraete nessuno. Questo è il punto. Ah, beh, questo è interessante, questa cosa. Vuote spoglie. Io sono ieri, non so, qualche giorno fa a Firenze mi sono girato tre chiese. Una era piena di tombe, cose funebri, no, ma è uno che vede, ma cioè, come dire? È un cimitero. Non siete attraenti, cioè, caro no, Marione, direttore della Croce, non attraete nessuno, non siete pop. Ma manca, non c'è Savonarola, per cui le chiese sono vuote, non c'è nessuno che incanta niente, guarda, no, che raccontate, guarda, niente. Guarda che questa cosa è interessante, al di là di come la mette Vincino con la sua ironia sempre. Io la ringrazio, che ogni tanto ho un pensiero interessante. Ma ogni tanto, ma guarda, un pensiero capita, interessante anche a me. Capita anche difficile. A Vincino. È difficile, ma guarda che questa cosa, Marione, ci avete pensato voi? Ci ho pensato talmente tanto, infatti ha perfettamente ragione Vincino, che cosa ha detto? Sono vuote perché non c'è Savonarola. Io dico sempre, abbiamo scritto anche sulla Croce, noi abbiamo una sola possibilità per combattere realmente questo fenomeno, è invitare i giovani a una diversa radicalità. Cioè, l'elemento della radicalità dell'esistenza, cioè del dedicare l'esistenza a qualcosa di radicale, cioè che abbia a che fare con la nostra radice, è l'unico elemento di salvezza che possiamo pensare e costruire. Noi pensiamo che la risposta sia suonare le canzonette, Imagine, John Lennon, tutta questa roba qua, tutta lì, roba bella, emotiva, ma la sostanza è o noi riusciamo a costruire le ragioni per difendere quelli che chiamiamo i nostri valori, o se no ha ragione Vincino, si svuota tutto, se no, si svuota, sparite, o moriamo, vuol dire questo. Vabbè, o noi capiamo che abbiamo questa radice da difendere, che poi dopo non è che è successo oggi che l'Islam decide di conquistare l'Europa, è divertente il lapsus di del parlamentare, perché poi in Sicilia ci sono arrivati gli arabi. Cioè, il dato reale è che l'assalto dell'Islam all'Europa dura da 14 anni. Come no? Ma Vincino, volta, Vincino lo sa che sono arrivati. Come campavamo alla grande in quell'epoca. Vincino, Palermo, questo continua a sostenere. Palermo dalle mille moschee, il dolce odore della canapa indiana. Racconta un poeta arabo. Capito, ma tu non è che puoi prendere. Tu non è che puoi prendere l'aspetto della canapa indiana. Sono cambiati un po' i tempi. No, ma racconta quel poeta là del Novecento, no? Ibn il qualche altra cosa, no? Battuta forse o suo cugino, insomma, era là una famiglia di viaggiatori, insomma. Però devo dire che poi dopo arrivarono i normanni e noi abbiamo fatto l'arabo normanno, cioè ci sono ponti ancora in piedi, ce l'hai raccontato, dire. No, però è interessante questa cosa, insomma, non attraete. Tu, Mario, dici bisogna evitare un nuovo radicalismo, cioè no, non deve essere la risposta quella di fare le canzonette, i preti che suonano, che fanno le messe con la samba per... Posso dire una cosa, scusa, l'ultima, com'è? Non la dico più, no sì. O la religione è politica sempre, o è politica, o non è. Un po' sì, è così. Sì, no, come dire, o è politica e le chiese sono piene, in un certo senso, o non è politica, e allora sono cimiteri praticamente. No. Lì l'Islam è politica al 100%, e la politica è sempre conquista. Obiettivamente è così. Cioè, anche Renzi, quando inizia, fa politica di conquista. No, è la scalda i cuori quando dice mi farò un mondo, un'Italia migliore, e poi in realtà fa l'80% non lo fa. Fa mezza riformetta che era già pronta prima e basta, il resto è occupazione. No, la pubblica amministrazione, quella dice: ah no, il job act non vale. Ma che non vale? Allora che hai fatto? Non hai fatto niente. Fuori, via. Renzi dovrebbe licenziare metà del suo governo, via. E fare tutto da solo. È fare le cose che non si sono fatte. Siamo arrivati, siamo piombati nella politica, caro Marione. Eccola. Ma guarda che c'è uno di Norfi che ti dice che Renzi comunque è uno che già fa l'imperatore, dovrebbe fare così, ma dovrebbe estremizzarla questa cosa. Forse ha ragione Vincino, caro Mario. Guarda, su questa dinamica, quando ragioniamo di queste storie, mi porti davanti alla vicenda americana di queste ore, io veramente la dinamica della politica italiana la trovo così irrilevante, sì. Così totalmente irrilevante. Parliamo delle primarie, delle primarie a Milano, sarà Sala o sarà Balzani o sarà, ma vi rendete conto, ci sono oggi due pagine del Corriere sulle primarie di Milano che saranno questa primavera e non si saprà neanche chi saranno i candidati, cioè. Capito? E oggi Putin, ma è solo quello sui giornali, Putin che dice alla Turchia: guardate che non è che vi mandiamo le sanzioni economiche, esatto. Occhio, ha detto Putin. Non ve la caverete con quattro pomodori. Quando uno come Putin dice così, io inizierei a guardare tutti i tè, tutti i caffè del mondo, tutte le bustine di polonio che saranno già state ordinate. Avete ammazzato sparando alla schiena i nostri soldati, non ve la caverete con le sanzioni economiche. Cioè, voglio dire, insomma, non lo so, è un paese dell'Alleanza Atlantica, hai questo tipo, la Turchia, come ricordiamo. Io non lo so, vedo quello che sta. Siamo i compari del contrabbandiere, noi siamo i compari di Erdogan, della sua famiglia di venditori di petrolio. Eccolo. Abbiamo sistemato anche Erdogan, al quale mandiamo il nostro abbraccio. È un visuale cioè arresta i giornalisti, ma massacra la gente a coso a quella piazza Alzano, ammazza gli avvocati di Putin. Stiamo col democratico Putin, invece stiamo col democratico Putin che invece no, perché lì Vincino, finalmente lì la democrazia russa notoria è no. In questo senso, noi non possiamo stare alleati con quello là, madonna mia. Usciamo dalla NATO, via. Risolto anche questo. Abbiamo licenziato la Madia alle 6:40 e siamo usciti dalla NATO alle 6:45. Adesso andiamo al traffico, perché poi vi voglio fare ascoltare alcune cose della politica italiana, due o tre cosucce così. Amone Milan, rimenati, traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta. Ciao Alessandro, visto che parli di religione, prova un po' a parlare anche degli insegnanti di religione che seguono graduatorie tutte per conto loro, fatte dalla Chiesa. Non sai il punteggio, non sai chi viene assegnato a una scuola piuttosto che a un'altra. Ma è facile parlare di noi giovani trentenni, non pensate alla pensione, ho capito, ma intanto adesso quando lavoriamo in tutti i modi dobbiamo versare i contributi a persone che invece adesso se ne stanno godendo la pensione. Io della pensione me ne sbatto, però intanto la pago. In queste operazioni di Renzi c'è sempre un errore di base, lui dai 80 euro. Dai 500 euro, lui deve togliere 80 euro dalla busta paga di tasse, deve togliere 500 euro di tasse dalle iscrizioni dell'università, questo deve fare, deve togliere, non deve dare. Milan, buongiorno, debosciato, oh ma ce l'hai anche te WhatsApp, Sì, alle 6:48 minuti siamo con Mario Dinolfi e con Vincino. Allora, Marione, no, non ti faccio spiegare questa cosa dei professori di religione, chi se ne frega. È la nostra. Poi vuoi dire qualcosa? Ti sei arrabbiato? No, perché di dramma, figuriamoci, adoro la vostra telefonica, come sapete, senza di psicopatici. Marione, dovete capire che è andato a letto ieri forse alle 2 di notte. Ho fatto piazza pulita, ragazzi. C'è uno che ha scritto scritto su Twitter: sono arrivati lì Fittipaldi e Nuzzi, sono usciti come due chihuahua dopo Adinolf. Ma che fate? Cioè, ma adesso, ma tu perché li hai sistemati tu? Ma che cosa c'è di male che hanno? Ma ti sembra normale un processo? Ti sembra normale processare due giornalisti perché ha scritto un libro? Un regalo grosso così a tutti. Adesso non è un processo. Una valanga dei quattrini, ragazzi, che parliamo? Non è un processo questo. Non è un processo. Ma che processo? Ma che tu pensi veramente che dovremo portare le arance ai colleghi? Ma io non ho detto questo. Il Vaticano gli ha fatto un regalo più bello, non ce ne poteva essere. Sai che bello essere processati. Sai che bello essere processati. Sono contento, fidati. Sono molto contento. Fanno un po' i martiri, dice. Fanno i martiri, hanno avuto un lancio planetario. Ma ho capito, ma il processo ti sembra. Ma non è che l'hanno chiesto. Ma non lo stanno processando. Vincino, adesso aiutami, non li stanno processando. Hanno chiesto loro il processo. Guarda. Ha ragione lui. Vedi i due libri accanto, che io non so. Io, guarda, non ho preso nessuno dei due perché dico, non vorrei fare un torto a nessuno. Qua me li lascio là tranquilli, là come tanto ormai me lo raccontano. Ho capito, ma adesso ci sta dicendo Mario che non esiste nessun processo. Ha ragione, ogni tanto pure la verità, pure dalla sua pure bocca. Pure Mario Adinolfi ha ragione. Oltre che Cip dice la verità ogni tanto. Mannaggia. Vabbè, Cip è per la sua amore per il poker, ma si dice Cip ai tavoli dove giochi tu. Ma sei veramente vecchio, Vincino, sei vecchio. Cip, ma che è Cip? Spacco, cosa si dice? Scusami, ma io ho il Corriere della Sera di ieri mattina ancora. Sì, no? Sì, il Corriere della Sera di mattina c'è scritto: ipotesi terrorismo interno, si è trattato di un gruppo estremista di marca White Supremacist. Ma che cosa? Questo rispetto alla cosa di ieri, a San Bernardino, il Corriere della Sera, in prima pagina, quello che si compra a Roma, vuol dire quello la prima edizione fatta alle 11 di notte, c'è scritto vabbè. White Supremacist. Ci piacerebbe questo, no? Noi ci piacerebbe moltissimo che ci ammattasse tutti tra noi, che non ci fosse nessuno che viene da là. Vabbè. Comunque, insomma, li hai sistemati questi Nuzzi e questo Fittipaldi? Sistemati. Era ovviamente la solita trasmissione di Inno ai libri. Ho provato a dire delle cose un po' dissonanti, qualcuno ha notato, insomma. Che ce l'hai fatta. Vabbè, comunque vi devo far sentire questo. Sapete che noi abbiamo avuto anche il sindaco di Livorno, ci sono i rifiuti a Livorno. Caro Vincino, ti devo far ascoltare un audio di un assessore del Movimento 5 Stelle, un audio che sta circolando su Twitter. Poi lui ha detto: ma io non mi riferivo ai lavoratori lì. Senti qua, l'assessore Lemmetti, senti, non mi importa un cazzo di questi stronzi qui. Questo è l'audio che sta circolando. Pensa fino a 5, caro Vincenzo. No, ma guarda che la cosa più drammatica è stamattina, non so se sono in Repubblica ci sono quelle registrazioni dal carcere di quel marocchino picchiato ripetutamente, ogni giorno, no, dai secondini che gli dico, la Costituzione in carcere non vale, cioè, io stavo fermo, ma se vuoi ti picchiavo pure io, no, e questo viene picchiato, ringraziamo che c'è Manconi, è cosa che ci fa avere queste registrazioni, e quindi, come dire, sappiamo che abbiamo un posto di inciviltà pazzesca da sempre, no? Si sa, purtroppo che le carceri italiane sono così, ma certo c'è questo audio, questa registrazione. Ma prima non picchiavano tanto, oggi invece picchiano tantissimo. All'epoca mia non mi hanno mai picchiato, devo dirti, obiettivamente. Tu che sei stato in carcere due volte, si sa. No, due posti diversi, uno era militare e l'altro era civile. Vabbè, insomma, niente, questo assessore del Movimento 5 Stelle ha detto questo, e poi che dobbiamo dire? Niente, basta, abbiamo chiuso, caro Marione, che dobbiamo fare? Domenica cosa fa? Sabato, domani, quando giocate voi? Domani? Oggi giochiamo, oggi giochiamo a casa nostra, a Roma, perché a Roma viene il spirito di conquista, quindi veniamo a